terra. Dai la pace a questa terra. Dona agli alberi la luce. Alle stelle dona voce. Dacci pioggia e dignità. Dacci il sole dell'umiltà. Non lasciare questo mondo in un pozzo senza fondo. Dai ai politici saggezza. Agli onesti dai purezza. Nei giardini, nei deserti. Lascia tutti i cancelli aperti. Dai ai più deboli speranza. Cielo, un'accoglienza. Non curarti della zizzania. Nasce morta, muore oscena. Fai la guerra ad ogni guerra. Dai la pace a questa terra. Fai la guerra ad ogni guerra. C'è questa terra. Hey, hey, hey, hey, hey, hey.